La bella estate. Racconti dell'Italia in vacanza. Di Fabrizio Intonti e Tommaso Labranca. Due agosto 2011, 2 agosto Sant'Eusebio, ve l'avevo già detto ieri. Oggi alla bella estate avremo parlato di Viva Sant'Eusebio, è una puntata dedicata alle vacanze che hanno qualche legame con, non voglio dire il sacro che è troppo, però pellegrinaggi, oratori, permanenze in oratorio. Addirittura gli scout, parleremo anche degli scout, ma non dimentichiamo che oggi è il 2 agosto, Sant'Eusebio, patrono di Vercelli e anche di Casciago in provincia di Varese. Quando piove tira vento o ti brucia il soleone, tu dall'alto del convento tieni aperto l'ombrellone. Sei l'ombrello dell'anima mia. Per grazia ricevuta si chiamava questo film e Nino Manfredi canta Viva Sant'Eusebio su musica dei Fratelli De Angelis con la S, mentre Mauro non ha la S, il mio regista è Mauro De Angelis, perché poi mi rimprovera sempre. Boy Scout, la prima immagine che noi abbiamo dei Boy Scout, almeno io, se chiudo gli occhi, mi vedo Alberto Sordi in Mamma mia che impressione, un film degli anni 50 che nasceva da una sua trasmissione radiofonica. Ve ne faccio sentire un pezzettino. Che stai a fare tu là? A tu che stai a fa? Io sto a fare quello che mi pare, che tu devo dire a te forse quello che sta a fare. Certo, lo so che sta a fare, sta a mettere la rivista, lo sai che se lo mette fuori servizio. Io lo so quello che devo fare, sai. Io sono un esploratore sa sempre quello che si può e quello che non si può fare. Io c'ho niente, ora dietro di loro. Aiuto! E qui cominciano a litigare Alberto Sordi con Carlo Delle Piane, perché non ci si può mettere la divisa fuori dalle occasioni ufficiali. Sarà vero, io non sono mai stato scout, ma ho al telefono qualcuno che è stato scout. Ho al telefono Gianluigi Paragone. Buongiorno. Pronto, Paragone? Non c'è più. È caduta la linea? Gianluigi Paragone è giornalista, lo conoscerete benissimo, anche conduttore televisivo, è stato scout e non è l'unico degli scout ad aver avuto una carriera fulminante e famosa, perché se andate a vedere su internet è pieno. Se andate su internet, prima passate sulla pagina della Bella Estate, mi raccomando, è la pagina Facebook dove metto un sacco di cose, filmati, cose speciali di cui magari parlo qui, ma di cui poi potete anche vedere le immagini. Dicevo, c'è una lista spaventosa di personaggi famosi che da giovani erano degli scout. Il primo della lista, che mi ha lasciato anche abbastanza libito, è Muammar Gheddafi. Muammar Gheddafi da giovane è stato boy scout. Sarà per questo che oggi ha la passione delle tende e ogni volta che va in un luogo si porta dietro la tenda? Non si sa, forse sarà qualcosa di particolare che hanno dentro gli scout. Ma intanto è tornato Paragone. Pronto, Gianluigi Paragone? Eccomi, buongiorno. Ah, ecco, buongiorno. Stavo dicendo che uno degli scout diventati poi famosi è stato Muammar Gheddafi, che mi sembra abbastanza strana come cosa. Ma parliamo della sua esperienza negli scout. Quando è avvenuta? Allora, mia è lunghissima, perché da Lupetto a Capobranco. Poi addirittura ho fatto un altro percorso in oratorio e sono arrivato praticamente a fare maestro di novizie e capoclan. Ah, quindi alla fine mia moglie mi ha detto: guarda che il mese prossimo ci sposiamo, quindi. Era un po' troppo tardi per restare negli scout. Ma ho letto, leggendo, dando veramente una lettura ai personaggi che hanno fatto gli scout da giovani e poi sono diventati famosi, ho visto una lista di 92 astronauti. 92 astronauti americani da giovani erano scout. Ma anche lei desiderava fare l'astronauta quando era giovane ed era un lupetto? No, diciamo che lo spirito d'avventura c'è sempre, poi addirittura direi che nei lupetti c'è questa avventura che si impianta sul racconto del libro della giungla, quindi non mi sorprende la cosa, però non ho mai sognato di fare l'astronauta, preferivo rimanere con i piedi per terra. No, perché mi chiedevo anzi, come gli scout, gli scout in teoria più rimangono con i piedi per terra meglio è, altrimenti uno ci si perde nei vari hike, nei vari percorsi. Due, perché comunque lo scout ha i piedi ben saldi in terra. Ma ha comunque una sua importanza poi questa formazione scout nella professione? Per me l'ho avuto nella vita, ancora prima che nella professione. Non ho conosciuto nei racconti di altri ragazzi un'esperienza formativa più appetibile di quella dello scautismo. Io lo consiglio sempre a tutti, c'è avventura, c'è responsabilità, c'è il fascino, c'è anche un po' di possibilità di staccarsi prima anche dalla famiglia, di capire che cosa vuol dire rimanere da soli, la responsabilità di tutto questo, insomma. Ogni tappa, soprattutto per chi dai lupetti poi è arrivato a svolgere la figura di educatore, ogni tappa aveva la sua importanza e ben si calava nel momento della propria vita, quindi affascinante. Io ancora oggi ho i miei amici scout, ci vediamo, racconto sempre e volentieri quello che è stato il percorso di una vita fatta di giochi, fatta di responsabilità, fatta anche di maturazione religiosa, visto che io ero nella GESCI, che sono gli scout cattolici italiani, le ho vissute dal di dentro, certo, addirittura, certo. Anche dentro un monastero, mi ricordo un bellissimo campo estivo al monastero di Bose di padre Enzo Bianchi, sì. Quindi molto bello. Ecco, un'ultima curiosità: a volte vediamo nei film, leggiamo nei romanzi che i membri delle società segrete si riconoscono da una particolare stretta di mano, ma voi ex scout come vi riconoscete tra voi? Avete un gesto, un canto, una stretta di mano? Ma è una promessa, è la promessa che si porta sempre. Recentemente abbiamo rinnovato la promessa, noi scout di tutta Italia, e lo abbiamo fatto, e secondo me quella promessa al collo la si porta sempre. Poi c'è il saluto, no? Il pollice e l'indice che si toccano e lasciano in piedi le altre tre dita della mano, vuol dire che il pollice, che è il più forte delle dita della mano, aiuta il mignolo, che è il più debole delle dita della mano stesso. Quindi c'è questo saluto particolare, però non è che ci si incontra e ci salutiamo no. con quel segno. Mi è venuto in mente una cosa così. Cioè. Però il fazzoletto al collo, diciamo che lo portiamo sempre. Mi ricordo che c'era un racconto preghiera, era quale uomo, no? E diceva: credo nell'uomo dei calzoncini corti, quei calzoncini per cui tra l'altro veniamo spesso derisi in giro, credo nell'uomo dei calzoncini corti, non credo nell'uomo con i pantaloni con la piega. E per me poi si è trattato nel corso della mia esperienza di capire quanto di quei calzoncini corti rimanesse anche dopo, cioè anche quando poi mi sono messo il vestito e la cravatta, con la piega, certo. E la cravatta ha sostituito la promessa. Allora lì ho capito che la cravatta non ha mai sostituito la promessa. E il fuoco attorno al quale comunque ci si riuniva la sera, oppure il condividere il peso della tenda da portare, condividere il cibo, sono tutti valori che mi sono rimasti dentro, che ho ancora e che vi legano un po' la bussola, ma anche adesso che sono papà di due bimbi e sono marito, certo, di Laura. Ecco, allora grazie a Gianluigi Paragone, e per chiudere voglio regalarle una canzone che magari ricorderà. Grazie ancora Gianluigi. Grazie a voi. Che questa è una canzone degli scout, io non essendo stato uno scout non lo so, io non ho fatto niente in vita mia, per questo io aspetto all'800 24 00 24 i vostri racconti. Avete fatto un pellegrinaggio, siete stati non so a Santiago di Compostela piuttosto che al santuario vicino a casa, oppure siete stati scout, raccontatemi tutto, 800 24 00 24. C'è un altro momento sempre del film Mamma mia che impressione con Alberto Sordi che voglio farvi sentire. Lui era innamorato di questa signorina Margherita, la seguiva ovunque e per conquistarla si era vestito da esploratore. Ah, è lei? Sì, signora Margherita, sono io, mi vede? La vedo. In divisa? Sì, signora Margherita, esploratore della barchetta di Don Isidoro. Ah, esploratore, bravo, bravo. Posso accompagnarla, permette, signora Margherita? Sì, volentieri. Grazie, signora Margherita. E stia pur tranquilla, che nulla le potrà mai accadere finché cammina al fianco di un esploratore. Ma che cosa vuole che mi accada? Ma non so, signora Margherita, ma certo che possano accadere tante cose. Glielo dice un esploratore. Largo Fanciulli? Largo Fanciulli, il film è molto divertente e molto surreale. Ma intanto c'è già Gualtiero da Rimini che mi deve dire qualcosa. Gualtiero. Pronto? Pronto? Ciao. Ciao Gualtiero, sei stato, sì, scout? Io sono ancora scout. Come sei ancora scaldo? La voce mi dice che hai qualche anno in più, però. Quasi 40 ormai. Però faccio il capo, quindi ho permesso ai ragazzi di fare la stessa esperienza che ho fatto io quando ero giovane, più giovane. Quindi tu passavi le tue estati nei campi scout? Sì, certo, le passo tuttora. Io fra 3 settimane parto per un campo con i lupetti. Ma e in famiglia cosa dicono? Mia moglie è anche lei scout, quindi... Allora voi siete come, guarda, nella lista degli scout famosi ho trovato George Bush, George W. Bush, il secondo presidente, e c'era anche la moglie, Laura Bush. Evidentemente anche loro si sono incontrati in un campo scout. In realtà lei ha cominciato dopo, diciamo che si è fatta trascinare da me, quindi diciamo che è stata una cosa più successiva la sua passione, quella di mia moglie, però il paragone con Bush ci può stare, insomma. Vabbè, ti fa piacere, dici va bene... Siamo come i coniugi Bush, loro sono stati al capo degli Stati Uniti, noi no, però. Che zona sei tu, Rimini? Quindi... Sì, precisamente mi sono Adriatico. Ah, quindi ti muovi sempre in quella zona anche con gli scout? Oppure... Sì, noi non facciamo tanta strada, poi essendo con i bambini non è che li portiamo chissà dove, insomma abbiamo fatto esperienze con i ragazzi più grandi anche all'estero, insomma, però con i bambini più piccoli si rimane in zona, ecco. Tu hai quasi 40 anni, mi hai detto, quindi probabilmente ricorderai una cosa che adesso farò ascoltare a tutti, che io ricordo perfettamente perché ho quasi qualcosa di più di 40, e che ci aveva segnato. Non erano proprio scout, qui torniamo nell'ambito oratoriale, erano dei ragazzi che in un oratorio, guidati da un certo prete, addirittura risolvevano dei gialli. Rosa, rose, rose, ma com'è difficile il latino, chi mi aiuta a fare la lezione sulla prima declinazione? Io, oggi merenda sui prati, io metto pane e ciliegie, avanti coraggio, chi mette il panaggio? Erano gli anni 60 e questa serie di telefilm pomeridiani si chiamava I ragazzi di padre Tobia, con Silvano Tranquilli, l'attore Silvano Tranquilli. Mi ricordo che non ne perdevo uno, mi piacevano, non frequentavo l'oratorio, ma quindi era una versione virtuale dell'oratorio. Come si dice adesso che tutto è virtuale, non è vero, sono decenni che le cose sono virtuali. Negli anni 70 poi questa partecipazione ai limiti, diciamo, del sacro è cambiata. E abbiamo avuto le famose messe beat. Qualcuno ricorda la messa beat? Qualcuno ha suonato nelle messe beat? Me lo faccia sapere, 800 24 00 24. Se non sapete cosa erano le messe beat, come non lo sa sicuramente Mauro che mi guarda allibito, te lo spiego. Invece di queste belle corali, dei cori, delle orchestre, delle messe di Mozart, nelle chiese c'erano i gruppettini con la chitarra elettrica e la batteria e facevano le messe beat cantando cose come questa. Si schiusero i cieli sopra i mari silenti, la luce fu, sbocciarono i fiori. Momenti di misticismo ai limiti del rock. Vabbè, era la messa beat questa. Ah, c'è Roberto da Genova. Pronto, Roberto? Sì, Roberto, sono un vecchio scout, sono in macchina. Ho sentito l'amico scout di cui non ricordo più il nome e non ho saputo resistere perché ce l'ho un po' nel sangue. Ma cosa vi posso dire? No, dimmi tu qualcosa. La cosa più bella del mondo, consiglio a tutti i genitori. Io ho fatto 50 anni di promessa, il 50esimo giorno 23 aprile di quest'anno, che è combinazione proprio San Giorgio, il nostro patrono. Sì. Abbiamo promesso di fare del nostro meglio e io nel mio piccolo ho cercato sempre di fare del mio meglio, insomma. Ma ti è mai successo qualcosa di particolare? Hai salvato, hai aiutato le vecchiette ad attraversare la strada? Perché questa è l'idea che noi da fuori abbiamo degli scout. Ma cosa fa lo scout? Non ho capito, scusa. Ti ho detto, tu hai mai fatto una di quelle buone azioni da scout? Aiutare le vecchiette ad attraversare la strada? No, aiutare le vecchiette no, però cercare sempre di fare del mio meglio sì. Ricordando sempre quelle famose parole del nostro grande fondatore Lord Baden-Powell, che ha fondato lo scoutismo in tutto il mondo. Cercare di lasciare il mondo un po' meglio, adesso in inglese è tradotto difficile, meglio di quanto l'abbiamo trovato, cosa molto difficile oggi. Ecco, quindi quello è stato il tuo impegno che porti avanti ancora adesso? Sì, vabbè, indegnamente, perché le strade della vita poi è difficile mantenere certe belle cose. Comunque scoutismo, ripeto, lo consiglio a tutti i genitori. Va bene. Forse l'ultima ancora, perché rimane più niente. La nostra promessa, l'amico di prima parlava del pollice e dell'indice, il forte che aiuta il debole, ma le tre dita famose con le quali ci salutavamo, salutiamo ancora adesso, sono Dio, patria e famiglia, lasciatemelo dire forte, anche se purtroppo non usano più queste cose. Ok Roberto, grazie allora. Buona caccia a tutti gli scout che mi sentono. E ciao. Coraggio, siamo milioni nel mondo. Ciao a tutti, ciao, grazie. Ciao, ciao. Milioni nel mondo. Allora, abbiamo sentito prima un bel pezzo tratto da una messa beat. Non dovete pensare che fosse una cosa sacrilega, era molto normale. Io trovo molto più sacrilego un pezzo come questo. Piccolo crocefisso nella stanza di mamma e papà. Tu proteggevi i miei sogni nelle notti di tanti, ecco, anni fa. L'anno scorso andava molto un pezzo di tale Stromae, mi sembra si chiamasse, che si chiamava Laurent Dance, in cui raccontava un sacco di sciagure e diceva sì, ma tanto noi balliamo lo stesso. Va molto di moda nelle balere di tutta Italia danzare al ritmo di queste canzoni, perché Gianni Dego, oltre che questo piccolo crocefisso, ha anche inciso Madonnina di Sarajevo, che è un altro pezzo che meriterebbe la scomunica. Oppure quando ballano addirittura delle sciagure, c'è quel pezzo dedicato ai caduti di Nassiria che veramente andrebbe bloccato sul nascere, ma vabbè, in balera succede anche questo, si balla e non si pensa più a niente. Stranezze del mondo. Vogliamo tornare indietro nel 1978? Facciamolo con la Hit Parade. Hit Parade! Numero 10, One for You, One for Me, La Bionda. Numero 9, Night Fever, Bee Gees. Numero 8, UFO Robot, Actarus. Si trasforma in un altro missile con circuiti di mille valvole, tra le stelle sprinta e va. Mangia libri di cibernetica, insalate di matematica e a giocare su Marte va. Numero 7, Tarzan lo fa, Nino Manfredi. Numero 6, Generale, Francesco De Gregori. Numero 5, Stayin' Alive, Bee Gees. Numero 4, Ti avrò, Adriano Celentano. Numero 3, Watery Nights, Kate Bush. Numero 2, Sotto il segno dei pesci, Antonello Venditti. Numero 1, Tu, Umberto Tozzi. E l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu non ci sei. 1978, perché ho scelto il 78? Perché è stato un anno molto particolare, visto che parliamo di cose vicine vagamente alla religione. Il 78 è stato l'anno dei tre pontefici, se vi ricordate, perché Paolo VI, poi Giovanni Paolo I e poi l'elezione di Giovanni Paolo II. Quindi per questo motivo ho scelto il 78 e ho sentito con piacere Kate Bush, che per me è quasi la Madonna, vi dico la verità, anzi è meglio di Madonna la cantante. Io sono un seguace della chiesa di Kate Bush, la amo follemente. Vabbè, vi sto confessando troppe cose, e non dico confessando mica per caso, eh. Ramona da Latina, pronto? Pronto, ciao. Buongiorno Ramona, ciao. Buongiorno. Scout anche tu? Sì, scout anch'io, ho 37 anni, quindi ho iniziato con i lupetti e confermo tutto quello che ha detto il ragazzo Gianluigi, se non sbaglio, prima di me. Sì, è un giornalista, Gianluigi Paragone, sì, famoso. E sì. Ho fatto anch'io tutto il cammino fino a diventare educatrice e poi ho scelto, diciamo, un'altra via, che è quella di comunque... sono partita la prima volta a 15 anni e sono andata a Lourdes con l'unità ASSI, e quindi aiutare questi ragazzi diversamente abili, che è una cosa, dico, bellissima, che comunque cioè è un'esperienza che tutti dobbiamo fare nella vita. Sì. Tu quindi, diciamo, dedichi parte delle tue vacanze a queste esperienze? Sì, io questi ultimi anni non sono partita più perché ho una bimba, però fino a 4 anni fa sono sempre andata puntualmente a settembre, l'ultima settimana toglievo, diciamo, tra virgolette, la mia settimana e la divaganza per dedicarmi a queste persone. E una cosa dico, io sono sempre partita, dicevo, devo dare io a loro perché hanno bisogno di me, perché con il mio piccolo, insomma, si riesce, e invece poi tornavo a casa con lo zaino pieno di cose che mi hanno regalato loro. Sì. E questa era la forza che, tra virgolette, ti dà la forza di andare avanti per tutto l'anno e nella vita, quindi da tutti i giorni e il quotidiano. Ok, Ramona, grazie. Questa è una bella cosa, avete visto? Non si va in vacanza soltanto per andare in spiaggia, per divertirsi, è giusto anche andare per riposarsi, però c'è anche chi dedica parte del proprio tempo a queste cose. Sentiamo Dino da Milano. Pronto, Dino? Sì, pronto. Ciao, Dino. Ciao. Anche tu scout, come tutti gli altri? Ovviamente. Ovviamente. Ho preso la trasmissione, mi è piaciuto molto sentir parlare di noi. Io chiamo in realtà per evidenziare un aspetto, diciamo, dello scoutismo che tocca noi adulti maturi. Io ho 63 anni, quindi sono pensionato. La mia carriera scout ha avuto un iter come quelli degli altri, che quindi Lupetti, scout, rover, eccetera, capi, poi la famiglia mi ha preso. In realtà a un certo punto ho ritrovato sul mio percorso questo movimento che si chiama MASCI, Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani, che è un movimento ovviamente rivolto a persone già di un'età, di una certa età. E cosa fate? Allora, noi ovviamente non andiamo a dormire sotto la tenda, magari ci piacerebbe, magari ci riusciamo. Ma non si può più dopo una certa età, insomma. Esatto, in realtà noi cerchiamo di approfondire i valori dello scoutismo, quindi portiamo avanti quelli che sono i 3 dettati della promessa, e in particolare rivolgendosi a un discorso di cittadinanza responsabile. Sì. Quindi incontriamo degli specialisti, ci incontriamo tra di noi. E a questo punto vorrei appunto sottolineare che questo movimento di adulti è mondiale. In particolare si incontrerà a Como dal 24 settembre fino al 7 di ottobre e verranno adulti scout da tutto il mondo. Ci saranno quindi dei seminari, delle sessioni, sì. Sono tutti invitati a partecipare e a perlomeno cogliere gli aspetti di questa nostra volontà di non smettere mai di educarsi e di essere perché scout. Non si smette mai di imparare. Ok, grazie Dino. Figurati, grazie. Ciao, a grazie. E saluti a tutti gli scout. Ciao. C'è anche Alberto della provincia di Pitti, scrive, non mi scrivono mai perché poi non conosco le targhe. Pronto? Sarebbe Pistoia. Sarebbe Pistoia, lo so benissimo, faccio finta. Alberto, faccio finta. Senti, io sei scout? Dunque sì, scout io, scout mia figlia. Tutta la famiglia scout, mia moglie no, ma insomma, è lo stesso. Mia figlia ha continuato in un altro luogo l'esperienza cominciata negli scout, si occupa di volontariato per i disabili, quindi è un, diciamo che un po' un male di famiglia. Ma no, non è un male. Guarda, noi naturalmente il nostro è un programma leggerino, quindi l'affrontiamo un po' ridendo il tema. Però alla fine, vedi, sono cose anche molto utili. Abbiamo la signora che accompagnava i disabili a Lourdes, poi vedo che anche tua figlia si impegna. Per cui... Sì, infatti si dà abbastanza da fare. Ma mi interessava intervenire sulle messe ditte. Ah, perché? Tu hai suonato... Ci cantavo le messe ditte, ci suonavo la chitarra, sì. Le messe ditte, sì. Ed era un'esperienza molto bella. Alberto, devo fermarti. Sì. Perché, e questo è un discorso che mi interessa tantissimo, possiamo parlarne dopo? Quando vuoi. Ecco, perché adesso sai, dobbiamo andare la linea a tutte le altre cose della radio. Stai lì, non muoverti, cerca di ricordarti cosa suonavi e come lo suonavi, mi raccomando, e ci sentiamo più tardi. La bella estate. Attraverso mari e monti. Alberto, ci sei? Eccomi. Ecco, sei rimasto lì. Ma cantavi anche questa canzone di Orietta, Dominique? No, infatti è questa la cosa antipatica della mitologia sulla messa bitte. Quella lì è il simbolo di quello che la messa bitte non era. Infatti, allora spiegarci bene che cos'era. Ma dunque, fatemi partire da lontano. Sì. Nella Chiesa Cattolica, quando si inventò il Gregoriano, se lo inventò perché era l'unico modo per far cantare gente che non conosceva la musica tutti insieme. Esatto. A un certo punto il gregoriano, che all'inizio era un modo di cantare che capivano tutti, era diventato un bellissimo, bellissimo retaggio culturale di pochi. Sì, e quindi? Come chi canta prega due volte, diceva Sant'Agostino, la messa a bit voleva essere un'idea per mettere tutti nelle condizioni di cantare senza aver dovuto fare né conservatorio né studi particolari. Esatto. In modo tale che un ragazzo con una chitarra che si trovasse per caso in un'assemblea che aveva deciso di fare una messa al campo, per esempio, esperienza scout anche qui, e beh, si metteva a trimpellare, tutti quanti più o meno conoscevano quelle canzoni e il servizio liturgico era garantito. Senza un organo, senza niente di impegnativo, si riusciva a mettere insieme un momento di condivisione spirituale che era molto bello e molto spontaneo. Però poi si facevano anche nelle chiese, perché ricordo di averne vista qualcuna nelle chiese con questi gruppettini che suonavano in luogo dell'organo. Ho portato i miei ragazzi a fare la messa di inizio anno scolastico, allora usava, nessuno si scandalizzava, accompagnandoli con la chitarra, senza che nessuno si scandalizzasse, ed erano gli ultimi anni 80, primi anni 90. Addirittura così tardi? Sì. Ma proprio perché è molto semplice mettere insieme un bel servizio liturgico con una chitarra e quattro voci. E se si comincia a dire che bisogna fare le prove, che ci vuole l'organo, che bisogna cercare qualche orchestra, che bisogna fare la sottotitoli, non si arriva più da nessuna parte poi. Tu cosa suonavi, Alberto? La chitarra, va bene, grazie, è stato bello, ci ha illuminato veramente su quella che era la messa beat. Però ci sono dei momenti in cui il sacro e il profano si incontrano e non sempre in maniera gradevole. Nel 1979 Miguel Bosé ebbe molto successo con questo pezzo. Ne nacque un caso perché qualcuno si scandalizzò, disse: ma questo è un canto mariano, è il famoso Mira il tuo popolo. In effetti è vero, ascoltate. Non fu mai negato, gli autori dissero di essersi ispirati a questo canto mariano per creare, poi addirittura si chiamava Vota per Giovanni XXIII, quindi era ancora un altro riferimento religioso. Ultimamente ho sentito in un centro commerciale una canzone di Tiziano Ferro, e sottolineo centro commerciale perché io a casa non ho i dischi di Tiziano Ferro. La canzone di Tiziano Ferro si chiama Indietro, eccola qui. Ma se cerco indietro, io la sentivo e sentivo che dentro c'era qualcosa di mistico, mi vedevo una grotta, mi vedevo una mangiatoia, mi vedevo una cometa, e poi finalmente ho capito cos'era successo. Se cerco, lo vedo. L'amore va veloce, tu stai indietro. Buon Natale a tutti, soprattutto Tiziano Ferro, l'ispirazione a volte arriva, non si sa da dove, dal cielo appunto. Scorrendo la lista dei Boy Scout diventati famosi ho trovato delle cose incredibili: Massimo Giletti, Pippo Baudo, Paola Barale, Marco Baldini, Piero Badaloni, Lorenzo Cherubini, in arte Giovanotti, ma all'inizio, primo della lista c'è lui, Vittorio Agnoletto, primo della lista perché ha la ex parlamentare europeo, ex vero Agnoletto? Pronto? Esattamente. Ecco. Sì, pronto. Buongiorno a tutti. Io ho fatto 20 anni di scoutismo, ho fatto tutto, da lupetto, rover, noviziato, comunità capi, ho fatto poi a mia volta il caporeparto, il maestro dei novizi e l'animatore di comunità capi, cioè tutto ho fatto, sia come ragazzo che come educatore. Un curriculum completo. Mi colpisce molto questa cosa, perché gli scout alla fine sono trasversali. Perché siamo partiti da Gianluigi Paragone, che sappiamo benissimo è un uomo di destra, e siamo arrivati a Vittorio Agnoletto, che sappiamo benissimo è un uomo di sinistra. Quindi va veramente oltre poi quello che si diventa, oppure una volta diventati qualcos'altro, adulti, si mantiene sempre questa fede in fondo. È veramente bipartisan. Più che bipartisan, direi che lo scautismo, almeno per come l'ho conosciuto io e l'ho vissuto io allora, era una grande scuola di vita e un grande stimolo a sviluppare la capacità critica, a non fermarsi alle apparenze, e poi soprattutto un grande impegno nella vita sociale. A un certo punto, quando una persona esce dagli scout, esce diciamo dal percorso formativo, prende quella che viene chiamata in gergo la partenza, come dire, hai fatto un percorso educativo, adesso prendi il tuo zaino in spalla e vai per la società, prenditi l'impegno verso gli altri. Poi certo, l'impegno può essere assunto in modo diverso, e questa è stata a mio parere la ricchezza di questa associazione, anche perché poi dal confronto tra posizioni diverse ognuno cresce a modo suo. Ma frequenta ancora qualche ex associato, qualche ex scout, va ai raduni, oppure è un capitolo chiuso della sua vita? Dunque, dentro di me è un capitolo emotivamente ancora aperto. Io sono un entusiasta degli scout, rimpiango moltissimo quei tempi e ritengo di dovere molto della mia formazione ai 20 anni che ho fatto in Agesci. Sì. Ho dei nipoti che sono dentro l'associazione, e in particolare la mia nipote, che adesso ha 17 anni, Margherita, in questo momento è in Svezia, dove c'è il Jamboree, cioè c'è l'incontro internazionale di tutti gli scout del mondo. Ecco. Mio figlio è troppo piccolo, ha 5 mesi, quindi è ancora presto. Ancora è ancora presto. Ecco. Noi abbiamo sempre l'idea, noi non scout, noi che guardiamo la cosa dal di fuori, abbiamo sempre l'idea dello scout maschietto, ma in realtà sono anche tante le ragazze, vero? Sì, anzi posso anche raccontare un episodio. Certo. Prima di due associazioni, quelle cattoliche che sono le più grandi in Italia, poi c'è anche il JEI, che invece è un'associazione laica di scout, erano divise le due associazioni cattoliche, c'era l'ASCI e sì. L'AGI. L'ASCI era maschile e l'AGI era femminile. All'inizio degli anni 70 si è cominciato un percorso che veniva chiamato coeducazione, cioè educare insieme maschi e femmine, e poi le due associazioni si sono fuse e adesso c'è la GESCI che comprende sia maschi che femmine ormai da direi circa 30 anni. Anche in quel campo devo dire che eravamo molto avanzati, perché io mentre andavo alle scuole medie inferiori solo maschili, scuole medie pubbliche normalissime, ma erano solo maschili, negli scout invece avevamo già dei gruppi misti. Sì, mi ricordo anch'io quando ero alle medie, c'erano la media maschile e le medie femminili, erano ancora indietro diciamo da quel punto di vista. Ma c'è un ricordo particolare legato alla sua esperienza di scout che magari le torna spesso in mente, ma anche una cosa stupida, che so, colto da un temporale senza la tenda? Di temporali senza la tenda ne abbiamo avuti veramente tanti, tantissimi. L'avventura più bella è il campo estivo, quando si dorme a 2-3 metri sospesi in aria. Perché, come sospesi? Cioè, delle... Ci sono delle amache? Sì. Ah, ecco. Dunque, parlo dell'età tra i 12 e i 15 anni, l'età del reparto. Sì. Si fa un campo estivo in genere di 2 settimane e i primi giorni si costruiscono le tende sopraelevate. Sì. Cioè si devono individuare in montagna 4 alberi posti più o meno simmetricamente. Poi allora si usavano dei tronchi che erano già tagliati, che dovevamo conservare, non dovevamo rovinare, eccetera. Si alzano a 2-3 metri d'altezza, si legano unicamente con delle corde, senza usare né chiodi né niente, quindi bisogna saper far bene le legature. Poi si mettono degli altri legni trasversali sopra il telo, sopra si monta la tenda e si dorme sospesi in aria tra un tronco e l'altro. Sotto ovviamente viene tesa prima una maca. Ah. E quello tiene anche durante i temporali, perché la tenda tiene e quindi va tutto bene. Per di più, si è sollevati, quindi l'acqua non entra da sotto ed è veramente una protezione perfetta. Ecco, bisogna non soffrire di vertigini. Infatti, lo sognerò stanotte questa cosa qui delle tende, del dormire sospesi. Beh, però per un ragazzino di 12-13 anni, beh, così sì, è veramente un'avventura grande questa. Certo. Anche perché è come costruirsi da solo la casa. Cioè, ecco, lo scoutismo insegna molto a fare le cose da soli, insieme, in gruppo, ma a farle da sé. Ecco, non trovare tutto già fatto. Ecco, questa è una buona lezione e un buon insegnamento. Grazie Vittorio Agnoletto, voglio regalare anche a lei una canzone come ho fatto con Gianluigi Paragone, e l'ascolti e poi naturalmente ne nasceranno dei ricordi. Grazie tante Agnoletto. Grazie a voi, arrivederci. Sarà una canzone scout, spero di sì, perché io mi metto a fare le ricerche, canzoni scout, e appaiono queste, e poi io le metto, poi scopro che non sono, ma non si sa. Massimo, Massimo da Milano, pronto Massimo? Sì, buonasera, Massimo da Roma comunque. Ah no, non sono io che non riesco a riconoscere le targhe, è lei che me le scrive male, la mia redattrice, ecco, lo fa apposta, mi tendono le trappole, Massimo. Vabbè. Salve, ciao. Niente, io volevo appunto intervenire dicendo che queste messe degli anni... le famose messe beat. Le messe beat, io tra l'altro ero del gruppo dell'Azione Cattolica, guardavo molto, un po' con invidia anche gli scout, perché li vedevo viaggiare, girare con queste tute e calzoncini corti che comunque mi attiravano. E noi le messe beat appunto intorno agli anni 77-78 fino all'81 io personalmente, mi ricordo che alcune canzoni, ad esempio Happy Days oppure pure Soffia. Eppure soffia, sì, quella di Bertoli. Eppure il vento, esattamente, eppure il vento soffia ancora. La facevamo durante la messa in una parrocchia, tra l'altro quella dell'Immacolata di Roma, quindi una chiesa anche abbastanza importante. Le messe erano belle e si partecipava molto volentieri. Ecco, che bello, era molto aperto anche, diciamo, il sacerdote, perché accettava, insomma, Bertoli sappiamo da che parte assolutamente stava. Assolutamente sì, la messa delle 10 era dedicata appunto ai ragazzi, e tre o quattro ragazzi, c'era anche una ragazza che poi così abbiamo formato anche il gruppetto che si faceva musica, teatro nella parrocchia. Oh, che bel ricordo. Massimo, tu hai confermato una mia idea, che qualche anno fa eravamo un po' più aperti di quello che siamo oggi. Oggi abbiamo più paura, siamo più chiusi e ci vergogniamo anche un po' di certe cose. Vabbè. Penso proprio di sì. Invece sì, era molto bello e si partecipava molto più volentieri tutti quanti insieme. Grazie Massimo. Buonasera. Grazie, ciao. Invece Matteo è veramente da Milano? Sì, ciao. Ecco, ciao. Ciao a tutti. No, ormai diffido di queste targhe che mi scrivono, perché ormai è una trappola. Matteo. Non ho detto bene la targa, anche se sono in viaggio intorno a Cuneo. Sei in viaggio intorno a Cuneo, ma devi fermarti, non guidare parlando. No, assolutamente, sono a bordo, ecco, strada. Bravo, perché è un vero scout. Rispetta le regole. Vero scout, rispettiamo anche il codice della strada. Tu sei scout, due parole, vero? Sì. A livello di curiosità, perché prima parlavamo di milioni di scout nel mondo. Gli scout nel mondo sono, se ben ricordo, 30 milioni. 30 milioni di scout. E per quanto riguarda le donne, la più grande associazione femminile del mondo. Quella italiana? Femminile. Ma quella italiana, tu dici? No, l'associazione a livello mondiale. Ah, a livello mondiale, perché c'era un attimo un disturbo. Del mondo, 10 milioni di donne associate, l'associazione più grande del mondo di donne. Ma tu sei ancora scout oggi o no? Sono ancora scout, ahimè quest'anno non in servizio attivo. Perché ahimè? Perché ahimè? Sto parlando di quanto è bello fare le vacanze con gli scout, non mi dire ahimè, dai. Di, per ahimè, fortuna. Non in servizio attivo, l'anno scorso ho passato una delle più belle vacanze estive con gli scout, se così le vogliamo chiamare, ho portato 20 dei miei ragazzi a Sarajevo, Sarajevo, a scoprire quello che è il vero senso della politica. Ma si parlava di scout e politica, sì? Non importa essere di destra o di sinistra, l'importante è, almeno tra i 17 e i 21 anni, mettere in gioco le proprie idee, pensare che possano essere sbagliate, mettere in gioco, essere disposti a cambiarle, per scoprire che magari non è quello che si pensa la verità assoluta. E certo, soprattutto per scoprire che c'è un altro che la pensa in maniera diversa, cosa che sui social network pare sia impossibile. Quello che dico è il verbo. Va bene, grazie Matteo. Posso dire un'ultima curiosità? Sì, dimmi che siamo in chiusura, dimmi. Ecco, Neil Armstrong, primo passo sulla Luna, aveva cucito all'interno della propria tuta spaziale il distintivo degli scout. Dell'Associazione Mondiale. Era uno dei 92 astronauti che erano scout ed è stato il primo scout sulla Luna. Grazie ancora Matteo. Abbiamo finito, abbiamo conosciuto scout, messe beat, di tutto. Domani prendiamo camper, roulotte, tende e andiamo in vacanza così. Vagabondo che non sono altro, si chiama la puntata di domani. Grazie a Mauro De Angeli in regia, grazie a Claudia Ricifari, sbaglia le targhe, in redazione. La pagina Facebook è sempre quella, La Bella Estate. Ci sentiamo domani. Ciao.